Ecco, noi avremo ancora due o uno, non so se ce la faremo a farne due, comunicazioni, dovreste lasciare il posto, scusate, a almeno Francesco Bellino, anche abbiamo parlato con Armando Savignano, non so se ce la faremo, so se Savignano sabato alla mezzogiorno sei ancora dei nostri. Sì. Ecco, vediamo Bellino come, dato che Bellino parte domani sera, viene dall'Università di Bari e quindi ha un lunghissimo viaggio davanti a sé, ed è bene, dato che non può trattenersi fino a sabato, ascoltare anche il suo contributo. Del resto è un contributo che ha molti punti in comune con ciò che è stato detto anche da altri. C'è il titolo della sua comunicazione seguente: il silenzio, la parola, l'ascolto, dei punti, l'ethos del pensiero. Nella cultura moderna, che è la tesi di McLuhan, è stata la tipografia a rendere l'auto le voci del silenzio. La stampa, isolando il senso della vista e rompendo l'intreccio tra tutti i sensi, aprì la strada alla segmentazione, alla linearità frammentaria e omogenea, e creò un mondo di antinomie e di dicotomie, altrettanto insolubili quanto irrilevanti. Una di queste dicotomie è quella tra parola e silenzio, in cui sono profondamente legati. La parola è il retro del silenzio, diciamo con Picasso, come il silenzio è il retro della parola. Tale dicotomia rischia di conferire alla parola il compito di esorcizzare il silenzio, che appare liberatore del nostro nulla e pertanto una minaccia per l'uomo. Per la coscienza telespettatrice dell'uomo postmoderno, toccata da tutto e da nulla, eccitata e indifferente, niente più preoccupante della malia mentante del vuoto esistenziale. E la nostra, come scrive Lipovetsky, è l'età del vuoto, delle mure solitudini, verbi desistente dalla luce spenta, sono parole di Pellegrini, atopica, senza altro né altrove, il mondo appare nella sua ostilità e il silenzio diventa irrazionale, assurdo. Nella filosofia moderna è stato soprattutto Kant, con la sua equazione conoscere uguale giudicare, a negare ogni valore veritativo e teoretico al silenzio, identificando conoscere e giudicare, le forme logico-conoscitive vengono a coincidere con le forme linguistiche del giudizio. Sono queste le forme attraverso cui ci viene data l'esperienza e questa accede al livello conoscitivo. Sia i concetti empirici che la stessa esperienza sensoriale e fenomenica acquistano una struttura epistemica solo attraverso le forme del giudizio e si esprimono solo attraverso le forme del giudizio e la sintassi logica. In tal modo l'analisi filosofica non ha più il suo primo nei dati dei sensi, come volevano gli empiristi o nelle idee, secondo i razionalisti, ma nelle rappresentazioni, cioè nei dati sensoriali strutturati dalle forme a priori. Ne deriva l'equivalenza tra i limiti della conoscenza e i limiti del linguaggio. La ricerca filosofica del secolo XIX e XX, ispirandosi a Kant, ha cercato di definire i limiti della conoscenza attraverso i limiti della rappresentazione e del linguaggio. Ciò che è inesprimibile non solo sfugge al linguaggio, ma anche alla conoscenza, e pertanto, come sostiene Wittgenstein, non è dimostrabile, può solo mostrarsi. Se ciò di cui non si può parlare si deve tacere, ed è davvero dell'ineffabile, questo mostra sé, è inutile. Ma il linguaggio, come scrive Max Picard, contiene più di quello che occorrerebbe alla pura razionalità. E spesso l'uomo si pone nel linguaggio assai più di quanto possa pensare. Impara nel linguaggio assai più di quanto possa pensare. In realtà, diciamo con Hegel, che le nostre convinzioni contengono molto più di quanto non si è cristallizzato nei concetti definiti, e che vi sono nelle nostre anime più tanti di quanti la nostra logica non possa esprimere. C'è inoltre disparità tra espressione ed esperienza. Come l'uomo è dotato della capacità di conoscere determinati aspetti della realtà, così è dotato della capacità di sapere che nella realtà esiste più di quanto egli sappia. E qui mi piace citare Pascal. Il supremo passo della ragione, scrive Pascal, sta nel riconoscere che c'è una infinità di cose che la tua, la sorpassano. È ben debole che non riesce a riconoscere. Se le cose naturali la trascendono, che dire di quelle soprannaturali? Ma la scienza, anziché ridurre, allarga la portata dell'inefabile. Infatti, mentre la storia del pensiero contemporaneo, il linguaggio assurgeva a una posizione centrale, contendente onnicomprensiva dell'universo culturale umano, e cresceva la fiducia nel linguaggio e quindi anche nella ragione, contemporaneamente, nella coscienza filosofica, andava e va sempre più diffondendosi la consapevolezza della scissione tra linguaggio e mondo. Come per esempio dimostrare molto bene la cosiddetta cultura della crisi, e del tramonto di una delle certezze della cultura moderna, quella della possibilità del linguaggio sia di esprimere la realtà in modo univoco, totale e oggettivo, sia di rispondere significativamente ai problemi vitali dell'uomo. Si allarga a dismisura l'area del messismo. Questo per esempio ha fatto parlare, ecco, l'ultima relazione venuta per esempio da lui, Francoforte, ha fatto parlare appunto da una cultura di tipo gnostico, proprio in virtù di questo ricorso all'inestimabile, che viene sempre più riconosciuto come centrale nella nostra cultura. Ma in linguaggio, nella scienza riescono, come stigmatizza Wittgenstein, a esprimere e a dare una risposta ai problemi vitali dell'uomo. Spiegare o giudicare un fatto è sempre unirlo a un altro fatto, ma ciò che è particolare è irriducibile, quindi. E quindi esprimibili, secondo la massima medievale, come individuo messi e fa. Ma solo dalla consapevolezza dell'unità della mia vita, scrive Wittgenstein, sorge religione, scienza ed arte. La leggerezza dell'essere, per usare un'espressione di studio, consiste proprio nell'unità della nostra vita. Ciò che dà un senso alla nostra vita si è sconosciuto. Le domande sensate e serie sono proprio quelle per le quali non esiste risposta, ma sono proprio queste che segnano i limiti delle possibilità umane e tracciano i confini dell'esistenza umana. Questo perché la vita si vive una sola volta e l'uomo è irrepetibile. Si può spiegare e immaginare solo ciò che è uguale, ciò che è comune, non ciò che è unico. A livello esplicativo, ripete Kundera, conosce Anima ist Alma, quello che avviene solo una volta è come se non fosse mai accaduto, e la vita si svolge una sola volta, e quindi noi non potremo mai appurare quale nostra decisione sia stata buona e quale cattiva, perché in una data situazione possiamo decidere una volta sola. Non ci viene data una seconda, terza o quarta vita per poter confrontare diverse decisioni. Io ho qui nel mio saggio parlato di tre paradossi che purtroppo metto: il paradosso del metalinguaggio, il paradosso del linguaggio e il paradosso del silenzio. Ma voglio parlare dell'ultima, della terza parte della mia relazione, altrimenti diciamo il discorso diventa molto lungo. Ecco, un obiettivo di questo mio lavoro è di cercare di giustificare il valore teoretico e veritativo del silenzio. Ecco, abbiamo visto quali sono state le condizioni che hanno portato a uno svuotamento veritativo del silenzio. Secondo me invece il silenzio ha un grande valore veritativo. Ecco, però questo è possibile solo se si verificano certe condizioni. Quali sono quindi le condizioni teoretiche perché il silenzio non sia un vuoto atto di mutismo, una sorta di retorica dell'ignoranza, o al contrario espressione dell'esoterismo dell'ineffabile? Per avere un valore teoretico, il silenzio deve essere silenzio parlante e ascoltante. In tal modo il silenzio si iscrive nel processo della comunicazione, nel duplice modo, sia dell'ascolto, sia della sia della comunicazione non verbale, veicolatrice di significati. Sia nel primo che nel secondo modo il silenzio lo consideriamo con, diciamo, con onde, come una specie di discorso, piuttosto che una specie di tatto o gusto o odorato o vista. Un silenzio parlante, diciamo. La ragione è palese. Il silenzio stesso è concepito in riferimento al suono, è il polo opposto del suono. L'importanza primaria del suono del mondo orale a orale della comunicazione varia nelle diverse culture. E noto che gli ebrei e i greci, per esempio, attribuivano un valore diverso all'udito. Gli ebrei tendevano a porre in relazione il capire con l'udire, piuttosto che con il vedere. Il Dio ebraico è un Dio che si ode, ma non si vede. Per i greci, invece, diciamo con Eraclito, gli occhi sono più fedeli testimoni degli orecchi. Se si studia la metaforologia della storia della filosofia occidentale, si può constatare come le metafore tratte dall'udito siano assai rare, con la sola eccezione di Heidegger, per il quale il pensiero è ascolto del richiamo dell'essere. L'intuizione e la contemplazione hanno avuto sempre la meglio sull'ascolto nella nostra tradizione. Il giudizio ha derivato il suo linguaggio metaforico dal gusto, che è il più intimo e privato dei nostri tempi. L'era attuale dell'elettronica è caratterizzata dalla nuova importanza assunta dall'udito, ma il sensore è oggi tremendamente confuso. La voce, soffocata dalla scrittura e dalla stampa, ha preso nuovo vigore. Alla sequenzialità proprio della cultura filografica e tipografica, subentra la simultaneità della cultura elettronica. Dall'individualismo si passa al comunitarismo del linguaggio globale. La parola, nella sua forma più pura, e più umana, cioè la parola che passa oralmente tra uomo e uomo per tessere i rapporti umani, la parola nella sua purezza sonora, per superare certi limiti, imprecisione, transitorietà, va pensandone altri ruoli, oggettività, quantificazione, impersonalità. Il problema è questo, come lo enuclea Ohm. Una volta che la parola ha acquistato questi nuovi limiti, può conservare la sua antica purezza? Certo. Ma perché ciò sia possibile, dobbiamo costantemente recuperare quella purezza. Dobbiamo, cioè, cercare di comprendere meglio la natura della parola come parola. E questo implica la comprensione della parola come suono. E qui, per esempio, in questa posizione teoretica di Heidegger, quando fa derivare la parola, mette in rapporto la parola con il suono. Ciò che è quanto di più originale la parola. Ciò che l'uomo del passato possedeva istintivamente e compiutamente, dobbiamo possederlo più esplicitamente e chiaramente. Perché il silenzio abbia un valore teoretico, diciamo con pareggio, il suo contenuto deve essere affermativo, deve alludere a qualcosa che è fortemente significativo, per il quale non abbiamo mezzi espressivi. Di solito noi consideriamo carico di significato ciò che si può esprimere, e più di significato ciò che non può essere espresso. Come nota Hecker, l'equazione tra il significato e l'esprimibile ignora un vasto campo dell'esperienza umana ed è respinta al nostro senso dell'ineffabile, il quale è consapevolezza di un'allusione a un significato che tuttavia non si può esprimere. Se il senso ineffabile esprima la consapevolezza di un significato, risulta dal fatto che esso suscita nel nostro intimo timore e devozione. La vera ineffabilità affonda le sue radici nella inesauribilità della verità, nella sua ulteriorità. Pareggio, praticando il misticismo dell'ineffabile e affermando l'ontologia dell'inesauribile, scrive: l'inesauribilità è ciò per cui l'ulteriorità, invece di presentarsi sotto la falsa apparenza dell'occultamento, dell'assenza, dell'oscurità, mostra la sua vera origine, che è ricchezza, pienezza, ridondanza, non il nulla ma l'essere, non l'abrum, ma l'urbrum. Se è vero che la rivelazione della verità, in virtù della sua inesauribilità, implica l'inseparabilità del silenzio e della parola, del palesamento e della latenza, secondo il senso greco della lettera, altrimenti la parola non più alimentata dal silenzio diventa arrogante, e il silenzio ormai si tratta di forse finalista nel misticismo e nell'esoterismo ineffabile, nella disperazione anche. È anche vero che nell'esperienza silenziaria si afferma, a mio parere, il carattere intenzionale della verità. Proprio perché il silenzio è un fenomeno originario, non è una semplice negazione del discorso. Ci è stato dimostrato precedentemente che è la parola che deriva dal silenzio, non il verso. Ma qualche cosa di positivo è un mondo in sé, dove c'è silenzio e scrive chitarra, l'uomo è guardato da esso. Questo carattere increato, perpetuo del silenzio, conferisce una connotazione intenzionale della verità nell'esperienza silenziaria. Non è l'uomo che crea l'ineffabile, lo incontra, lo ascolta. In tale esperienza non è l'uomo la fonte del significato delle cose, egli lo scopre, non lo inventa, perché tale significato si manifesta nelle cose stesse al di là delle intenzioni e indipendentemente dalla consapevolezza umana. L'uomo, diciamo, l'uomo non fa altro che prestare le proprie categorie e i mezzi di espressione a un significato che già esiste e che lo trascende. Il silenzio fa emergere i limiti del carattere manipolativo e generalizzante del concetto, il dominio che la verità concettualizzata esercita sul particolare. La concettualizzazione della verità, di cui l'uomo ha anche bisogno, trova il suo limite nella contemplazione intenzionale della verità. Si può dire a questo proposito, con Benjamin, Viva Reich is der Tod der Intention. La verità è la morte dell'intenzione. Nel senso che la verità non entra a far parte di una mediazione concettuale e tantomeno di una relazione intenzionale. Questo non si tratta del, non abbiamo quindi però il limite della verità, del linguaggio e della ragione sicura, ma il riconoscimento dei limiti della verità concettualizzata e la ricerca di un modo d'arti più originario dell'essere della verità, affermando l'esigenza di una razionalità non dimezzata ma completa. Il Logos, come ha insegnato Heidegger, come ha detto molto bene la professoressa Marta, ma chi l'ha citata nel mio lavoro, il Logos, all'altro non è da intendere solo come dire, ma anche come ascolto, come posare l'accoglienza, come stile dito, nella famosa opera di Antichissima, cogitare e pensare e andare raccogliendo. Il silenzio inserito in questo logos non è ammutolimento stuporoso, ma apertura radicale e irriducibile. Sono le parole della professoressa. Diventa un silenzio ascoltante e maligno. L'esperienza del silenzio, inoltre, rivela come non ci sono solo problemi da affrontare nella nostra esistenza, ma vi è l'enigma, il mistero. La tendenza dell'uomo a oggettivare la sua esperienza del mondo, rendendo il mondo disponibile ai suoi problemi e alle sue categorie antropocentriche, imponendo secondo il senso del gesto alligeriano a questo il suo dominio, ha esorcizzato il mistero. Il